braccio dentro, perché gli va di averlo, ma ciò mica gli impedisce di spaccare il cemento al tempo come un carro armato, e sente l'ululato della libertà dentro la propria città che spara, amara sul più debole che non si para, e compra il solito di sola andata dentro ad una bara. Che storia strana, vorrei tanto saperne il vero motivo, e forse mi sarà grato appurarmene non più da vivo. Non serve alzare un dito, ogni sfregio torna indietro a dare il ben servito. Ecco perché dico vade retro, fottere coi fatti, un vincente non si abbatte, anche se è rimasto senza scarpe o con pochi scacchi. Perdenti uccisi dall'indifferenza, altri autodistruttivi, gli altri non resteranno mai impuniti. Ma la presenza del vero brillerà sempre ancora, come una stella sul nel cielo, questa è la storia. Ce la farò, io ce la farò, voglio la rivincita, mi riscatterò. Io ce la farò, io risorgerò, ritornerò a dare tutto quello che c'ho. Sì. Ce la farò, io rinascerò, mi rialzerò e poi ti giuro mi vendicherò. Ce la farò, io ce la farò, dammi un'altra chance e sta sicuro che non fallirò. Io non mi arrendo, ti inseguo e ti riprendo, ma alleno tutto il giorno e dal tappeto poi distendo. E sto soffrendo, nel ventre c'ho sta fitta, ma non mi tiro indietro a costo di un'altra sconfitta. E non mi importa di cadere un'altra volta, non può andarmi sempre storta, ragazzi sfondo la porta. Un'altra botta, un altro tiro sulla boccia, fumo solo roba cotta e sputor sangue su sta traccia. Parlami in faccia e fai vedere se c'è le palle, dici tutte palle, questa è una minaccia, non c'è parla alle spalle. So che a Mark Clyde con sti stronzi non puoi fottere, lo sai che qua trovi solo guai, è meglio che te dai alla riscossa con una mossa falla grossa. Ti seppellisco nella fossa e salgo sulla giostra. Adesso basta, ora ti veniamo a rovinare la festa, in casa sta risposta e vai fuori di testa. Ce la farò, io ce la farò, voglio la rivincita, mi riscatterò. Io ce la farò, io risorgerò, ritornerò a dare tutto quello che c'ho. Sì. Ce la farò, io rinascerò, mi rialzerò e poi ti giuro mi vendicherò. Ce la farò, io ce la farò, dammi un'altra chance e sta sicuro che non fallirò. Parte rullante, sangue che schizza, 20 settembre appiccio una primizia, ennesima ferita che non cicatrizza, inferta da un paese che mi sodomizza. Scrivo su una rizla il bene che te voglio, come non lo vogliono i pischelli a piazzale Clodio. La tua hooker la imbavaglio, brucio nel naso, botta a dettaglio, cotta e non sbaglio, sfondo la tua testa fatta, salgo a quote e dollari è più rarefatta, rimando la disfatta, manca il respiro, ma non c'è una lira, in dead non è un emiro, a dirla proprio tutta, mio padre manco è vivo, e ancora mi chiedi il motivo per cui scrivo, sul beat a ghigliottina, jackpot con stamina, continua a strillare come fa la tua bambina. Ce la farò, io ce la farò, voglio la rivincita, mi riscatterò. Io ce la farò, io risorgerò, ritornerò a dare tutto quello che c'ho. Sì. Ce la farò, io rinascerò, mi rialzerò e poi ti giuro mi vendicherò. Ce la farò, io ce la farò, dammi un'altra chance e sta sicuro che non fallirò. Ce la farò, io ce la farò, voglio la rivincita, mi riscatterò. Io ce la farò, io risorgerò, ritornerò a dare tutto quello che c'ho. Sì. Ce la farò, io rinascerò, mi rialzerò e poi ti giuro mi vendicherò. Ce la farò, io ce la farò, dammi un'altra chance e sta sicuro che non fallirò. I can't believe another time I feel so forsaken, I don't know why I'm not so fine but now no mistaken. Look at my fucking head, the goddamn can't stop the shaking. All this is freaking in a world for calm, my concentration invisible patient. I can't stop to tattoo my conscience, maybe my soul is completely totally heartless. I break my cranium to the wall to confirm my hardness, my mind is crushing as a motherfucking compress. It's a kind of hard feeling, yes I don't know but I need and I feel it. Sometimes I can't just be happy, someone suck my penis, so I can't stop to get rock. My voice is not the human, listen and pop, this is my track. Don't think about the future, I'm no sweet like sugar. It's not the prefer to be a cannibal, rationalist and radical, nothing on mechanical. I wanna die, I wanna cry, I wanna take some sick drugs, watch me burn in the hell, you bitch, no shut up, fuck up. Ce la farò, io ce la farò, voglio la rivincita, mi riscatterò. Io ce la farò, io risorgerò, ritornerò a dare tutto quello che c'ho. Ce la farò, io rinascerò, mi rialzerò e poi ti giuro mi vendicherò. Ce la farò, io ce la farò, dammi un'altra chance e sta sicuro che non fallirò.